Allora, les amis, benvenuti alla tappa numero 11 di Extra Extra. Siamo arrivati a metà Tour de France ed è giunto quindi il momento di avere un ospite speciale. Non che gli altri ospiti delle prime puntate siano stati meno speciali di questo, ma questo ha una particolarità rispetto a tutti gli altri, ovvero che questo Tour de France lo sta correndo. Oggi dunque Extra Extra torna al formato nemico degli audiofili, ovvero l'intervista spezzettata su WhatsApp. Il caso ha voluto infatti che anche questa fosse fatta mentre ero in viaggio, per cui non avevo molti modi di registrarla meglio, e è di un paio di giorni fa, perché oggi in realtà sì, abbiamo visto una tappa spettacolare che ci ha fatto constatare ancora una volta quanto gli dèi ci abbiano omaggiato di un'epoca d'oro nel ciclismo, no? Pensate a quegli stessi pomeriggi di luglio quando guardavamo gli scattini di Contador o i trenini di Froome, Bardet, Uran, e pensate invece a pomeriggi come questo, qui dove sono io. Fa caldissimo, ma valeva la pena di dedicarsi interamente a azioni che durano ore, in cui nessuno si risparmia, e auguriamoci che vada avanti così a lungo. Però questa era stata la tappa di oggi, una tappa splendida, l'abbiamo già detto, l'ho già detto, ma adesso facciamo un piccolo passo indietro a questa chiacchierata asincrona che è la puntata odierna di Extra Extra, e che risale infatti al giorno di riposo. Ieri c'era altro di cui parlare e l'ho fatta slittare, non che non ci sarebbe tanto di cui parlare anche oggi, ma sono certo che prima ancora che lui lo scriva lo abbia già fatto benissimo Leonardo nel pezzo che verosimilmente avrete appena finito di leggere. Dunque, questo è il contributo extra di Matteo Sobrero, che io ritengo un corridore un po' sopravvalutato in Italia e che in questa stagione alla Bora sta facendo il gregario, è uno degli uomini di fiducia di Primoz Roglic, ancora più importante tra l'altro nell'assalto al podio del Tour dopo che si è ritirato Vlasov proprio in occasione del giorno di riposo. E quindi con lui così ci siamo mandati qualche vocale, e l'inizio di questo scambio chiaramente è la richiesta di un'impressione generale su questa prima parte di Tour de France, che per Sobrero è un esordio, è il suo primo Tour e ha avuto la fortuna di esordire al Tour de France sulle sue strade. Sicuramente non mi aspettavo un'emozione del genere, partire dall'Italia. E mi ha sempre detto che il Tour è il Tour, a livello di persone, di immagine, tutto, e posso confermare che è vero, perché non ho mai visto così tanta gente anche a una gara in Italia, per dire. E credo che la partenza da Firenze e tutto il complesso abbia aiutato tutto ciò. È stato veramente emozionante. E poi vabbè, soprattutto anche per me da italiano, e poi per dire nella tappa 3, che siamo passati da casa mia, da dove sono cresciuto, è stato penso una tappa emozionante, e ho avuto modo di godermela, e che diciamo che lo stress quel giorno lì, i pianeti erano tutti allineati, andava bene a tutti che si andasse piano, cosa molto molto molto più rara, che sta diventando molto rara, e niente, quindi è stato molto molto bello. Rotto il ghiaccio su questo esordio, siamo andati più all'interno della corsa e ho chiesto un parere a Matteo, un primo parere almeno in questa prima metà di Tour de France, appunto precedente alla tappa di oggi, che però non credo abbia poi scombinato più di tanto gli equilibri che già avevamo visto, e un suo primo parere sui tre contendenti, tre grandi contendenti di questo Tour, o forse due più uno dovremmo chiamarli, che nel suo caso sono anche i rivali del suo capitano Primoz Roglic nella rincorsa al podio. Tadej, ora come ora, sembra proprio imbattibile. Vingegaard credo che debba ancora mostrare la sua condizione migliore, quindi rimango del dubbio che secondo me l'ultima settimana potrebbe veramente mostrarci qualche sorpresa, mentre Remco non lo so, rimane un po' un punto interrogativo, rimango un po' scettico riguardo, perché cioè, non ha mai tolto la Vuelta, per dire che ha vinto, non ha mai dimostrato una costanza per tre settimane, dove posso dire Ok, cioè, no, non lo so, rimane un po' un punto interrogativo per me, sicuramente anche parlando di parte, anche per Primus, perché cioè, corriamo per il podio e quindi ovviamente è il punto forse quello un po' più debole che ci interessa. E come era immaginabile, la lotta per la Bora è contro Remco Evenepoel, individuato forse come l'unico raggiungibile tra i rivali, e quindi quello su cui puntare per il terzo gradino del podio. E direi che la tappa di oggi ha dimostrato molto chiaramente quanto fosse corretta questa lettura, che poi, ripensando proprio al giorno di riposo, è la medesima di Evenepoel, che esattamente durante il giorno di riposo ha ribadito che il suo obiettivo comunque resta addirittura entrare nei 5, anche se forse la prende un po' larga. Ma noi torniamo a Matteo Sobrero, a cui ho chiesto di raccontarmi un po' della sua quotidianità in questo tour, a partire dalla vita in camera d'albergo, che insomma è quella che si trascorre più spesso quando non si è in bicicletta. Ed è interessante perché Matteo ha allungato lo sguardo su un periodo che, quando si corre a questi livelli, dobbiamo imparare a considerare molto più lungo delle 3 settimane di tour che vediamo in televisione. Sentiamolo. Diciamo che per questo tour siamo tutti in stanza singola, purtroppo, per te, ma per me è un valore aggiunto, forse per altri no. Però c'è anche da dire che cioè, sono partito di casa il 7 maggio, che sono partito con Primo per andare a fare le recon sui Pirenei, quindi parecchio tempo che sono via da casa e parecchio tempo che sono sempre con le stesse persone, quindi diventa un po' pesante, quindi apprezzi la camera singola, avere un po' di privacy ogni tanto non è male proprio da rilassarsi e da non pensare più alla bici. E quindi abbiamo fatto subito 3 settimane Sierra Nevada, praticamente quelli che siamo qua adesso. Anche staff, poi abbiamo cambiato dello staff per il Delfinato, però i corridori sono sempre gli stessi, poi Tigne, quindi è parecchio tempo che siamo insieme, il gruppo è bello collaudato, quindi non c'è bisogno di fare ulteriore gruppo in stanza, però la stanza singola è parecchio apprezzata. E infine, in conclusione di questa chiacchierata asincrona, siamo usciti dalla gara e siamo arrivati al terreno che più ci appassiona a noi che ascoltiamo, ma pure a lui, a Matteo Sobrero, che, come ben sappiamo, si divide tra il ciclismo e l'azienda vinicola di famiglia. E visto che il tour è arrivato al riposo, dipanandosi tra la Borgogna, l'Aube, lo Champagne, regioni che hanno nel vino, insomma, il proprio simbolo maggiore, ho chiesto a Matteo se avesse trovato il tempo di guardarsi un po' intorno, se fosse stato incuriosito da vigne o da cantine particolari, locali. E naturalmente la sua risposta, quando parla di ieri, si intende la giornata con gli chemin, i cammini sterrati di Troyes. Sì, ho avuto modo di guardare le vigne in questi giorni qua. Diciamo che il primo giorno forse, ovvero il primo giorno è stato la tappa che c'è stato un po' di caos a causa del vento, che non mi ricordo più che numero era, che siamo passati dalla Borgogna. Appunto, nel punto dove c'erano le vigne c'è stato un po' di caos, quindi lì non sono riuscito proprio a vedere. So che a bordo strada c'erano dei filari, quello me lo ricordo, però più in là del bordo strada non sono riuscito a guardare. Però invece poi nella cronometro, strano per me, perché forse è l'unica, o forse la seconda crono tutta la mia carriera che ho fatto piano, ero parecchio spiazzato, a dire la verità, però dai, il paesaggio non era male, quindi mi sono goduto anche un po' di filare, un po' di, mi sembrava un po' di aria di casa. E mentre ieri, anche ieri, niente, è andata bene che avevo fatto la recon di quella tappa, quindi sapevo cosa c'era intorno, perché sennò più che la ruota di quello davanti o no, non ecco, ho un po' di polvere, non ecco, ho visto tanto, purtroppo, però fa sempre piacere passare in mezzo ai vigneti, è sempre un bel ricordo. Dunque, ringraziando Matteo, non ho potuto che augurargli di tornare al più presto tra le vigne, una volta finita la stagione, una volta magari completata la vendemmia del 2024, per una visita più tranquilla e soprattutto mi auguro per lui per un giro di assaggi. Noi intanto procuriamocene più del solito di bottiglie buone, che se il tour va avanti così ci sarà da stappare assai spesso. Anzi, io lo faccio subito e secondo me lo rifacciamo tutti quanti anche domani. A domani da Extra Extra.